ora tu mi vuoi rubare la mia innamorata, il mio solo amore. Oh, oh, il mio solo amore. Tu lo sai. Ricordo più, oh oh, non ricordo più. Ricordo più, oh oh, non ricordo più, oh.